cose da fare e capire ma dove devi arrivare. Sei dentro ma stavi meglio di fuori, sei dentro fino al collo e io comincio il mio ballo. Tipo materiale, ma te la tiri da spirituale. Mi sbaglio, forse ci siamo già visti per essere in mostra tu. Chissà che cosa faresti già. E passi tra la gente lanciando missili per dimostrare che hai tante cose da e vivi sempre in pista con i tuoi simili. Non siete santi ma solo nuovi rampanti. Ti vedo, sei tipo materiale, ma te la tiri da intellettuale. Mi sbaglio, forse ci siamo già visti. Ti lascio l'uniforme, io ricomincio il mio ballo. Permettete, la prossima canzone la dedico a tutte le belle figliole che ci sono stasera, ragazzi.